America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Roma, Mario Platero. Sono ancora per qualche giorno in Italia dopo il viaggio della settimana scorsa al seguito del presidente Barack Obama, ma ovviamente continuo ad occuparmi di quel che succede in America e in particolare a New York. United Nations Office for Drugs and Crime Prevention is focusing for your better future. Ban Ki-moon, segretario generale dell'ONU, fra tre ore aprirà i lavori della giornata internazionale contro gli abusi della droga e dei traffici illeciti. Dunque oggi, mercoledì 26 giugno, è la giornata internazionale contro il traffico della droga. Dunque vorrei darvi così un quadro generale di dove siamo, perché il problema è serissimo e continua a peggiorare. Pensate che la prima conferenza contro l'uso dannoso e per la prevenzione dell'utilizzo di sostanze stupefacenti si è tenuta a Shanghai nel 1909. Ebbene, e purtroppo le cose stanno continuando a peggiorare. Il problema è terribile. I nostri sforzi, dice Ban Ki-moon, per promuovere lo sviluppo e la battaglia contro la droga, contro la criminalità, saranno molto più efficaci se avrà le sue radici nella partnership con i giovani, con la società civile, con i governi, con la comunità internazionale. Insomma, lavorare insieme per rompere il circolo vizioso della criminalità e per aiutare le comunità e le famiglie e per evitare che ci sia questo costo straordinario sulla società civile. Un messaggio dunque molto forte, se ne discuterà oggi, come vi dicevo, ma se ne è discusso in Italia non tanto tempo fa, quando è uscito un libro di Roberto Saviano, 000. Se io avessi investito 1000 euro in coca, dopo un anno ho un ricavo di 182.000 euro. Nulla al mondo genera un guadagno così gigantesco. Roberto Saviano, l'avete sentito? Beh, lui parla del narcotraffico, soprattutto del traffico di cocaina, e ha una proposta molto controversa. Dice: bisogna legalizzare il traffico della droga, della cocaina, delle droghe. Bene, ma quali sono i numeri? Perché questo è l'elemento preoccupante. C'è un rapporto proprio delle Nazioni Unite che ci dice: intanto c'è un giro d'affari straordinario, perché sono 321,6 miliardi di dollari, circa l'1% del PIL mondiale, stimato allora, era una cifra di qualche anno fa, in 36 mila miliardi di dollari. Oggi pensate che il PIL mondiale è di 75 mila miliardi di dollari, dunque stiamo parlando forse di una cifra pari a 700-800 miliardi di dollari di giro d'affari. Ecco, a questa conferenza ci sarà un personaggio importante italiano che partecipa, Letizia Moratti, direi l'unico personaggio che è coinvolto direttamente in attività di riabilitazione, e quindi porterà una testimonianza molto pratica, molto concreta. Con noi ai microfoni di America 24 Letizia Moratti. Buongiorno signora Moratti. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. Ecco, intanto cominciamo con la provocazione di Saviano sulla legalizzazione. Lei è d'accordo? No, perché la legalizzazione possa funzionare dovrebbe essere contemporanea in tutti i paesi del mondo, per qualsiasi tipo di droga, per qualsiasi quantità di droga, per qualsiasi età e per qualsiasi professione uno eserciti. Quindi lei pensi, un chirurgo che opera, un conducente di un autobus che porta a scuola i bambini. Ecco, quali altre formule ci sono allora per prevenire l'uso della droga? Abbiamo sentito il messaggio di Ban Ki-moon, lei lo vedrà più tardi. Ban Ki-moon, tra l'altro, è venuto, se non sbaglio, a visitare proprio San Patrignano. Sì, San Patrignano sarà l'unica esperienza che oggi verrà presentata come un'esperienza che ha dato risultati positivi. Io credo che si debba proprio partire da questo. Era uno dei punti che ho discusso anche con gli uffici della Casa Bianca 15 giorni fa, ed è proprio il tema della mancanza di conoscenza delle esperienze positive. Se c'è rassegnazione rispetto al tema della droga e quindi alla possibilità del recupero, è perché non si conoscono sufficientemente le esperienze positive, e quindi credo che sia importante condividere queste esperienze. San Patrignano, così come tante altre nel mondo, che hanno dato risultati positivi. Quindi credo che il messaggio che si debba dare è: dalla droga si esce. Quindi deve essere un messaggio di speranza per i giovani e per le loro famiglie, deve essere un messaggio di responsabilità. Dalla droga si esce attraverso un percorso educativo, si esce aiutando i giovani a trovare interessi, a colmare i vuoti che hanno, a superare le loro difficoltà, stando loro vicini, perché il problema non è la droga, il problema sono i vuoti affettivi, le mancanze di interessi, quello che li ha portati alla droga. Ecco, Ban Ki-moon dice dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo coinvolgere le comunità, dobbiamo essere tutti partecipi. Il vostro esperimento è un esperimento molto particolare, mi sembra che avete un tasso di successo enormemente superiore, per esempio, a quello di centri americani. Qual è il rapporto tra il coinvolgimento della comunità e le possibilità di successo? Io credo che il tasso di successo di San Patrignano sia dovuto alla gratuità di San Patrignano, sia dovuto alla residenzialità, quindi al fatto che San Patrignano è una comunità di lungo periodo, e credo che sia molto importante che questi elementi siano parte di un patrimonio che poi venga condiviso. Credo che l'altro punto importantissimo è proprio quello di lavorare su quelle che sono le pratiche che hanno dato i migliori risultati. Nessuno si può più permettere di sperperare denaro pubblico, nessun governo al mondo, e quindi occorre, come dice il segretario generale delle Nazioni Unite, unire le forze tra pubblico e privato, profit e non profit, e metterci tutti assieme, perché tutti insieme possono portare a casa i risultati. La cosa importante però è anche misurare i risultati. Ecco, lei ha parlato di costo, il costo della droga, sempre dalle stime dell'ONU, 122 miliardi di dollari in produttività perduta per le aziende, 15 miliardi di dollari in costi di assicurazione sanitaria, dunque un costo enorme anche sulla società. Ma se ci può essere oggi un messaggio di speranza dalle Nazioni Unite, cosa vorrebbe che dicesse l'ONU oggi per fare un passo in avanti, visto che le cose continuano solo a peggiorare? Non rassegnarsi. La droga è un problema che riguarda tutti, occorre mettersi insieme governi, pubblico, privato, esperienze positive per dimostrare che dalla droga si può uscire, per aiutare chi ha bisogno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee sull'America che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di droga, di speranza. Vorrei dunque dedicare, nel simbolo della speranza, la canzone del giorno a Janis Joplin, una delle più grandi cantanti americane, purtroppo morta per un overdose. Ecco una delle sue canzoni più belle, Me and Bobby McGee. Da Roma è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.